verità, le balle le devono lasciare stare. Se qualcuno racconta le balle perché lei era un bisiccio, non va bene. Questo è il chiarimento. Devono raccontare quelle, le cose giuste, non le balle. Le cazzate non le devono raccontare perché fanno brutte figure poi. Ecco, dopo il discorso mi... Va bene, ci prendiamo. Ciao, ciao a tutti, e mai fatti. Tanto mi diciamo fra, ci sei, non ci sei, sempre di zecca nei fitti, alla fin fine. Io ero propenso, come ti avevo già detto, di non mettere niente, però me la radio piace troppo, anche ascoltare. Se io non ascolto anche nelle bande HF, le V, le U, cioè se non riesco a non avere niente, a non vedere le radio in funzione, altrimenti sarebbe veramente da buttarci tutto in una mara per tutta questa gente che esiste ancora e continua imperterrito sempre a fare cose assurde che non attaccano a nessuna parte, come queste portanti, queste maleducazioni e quello ancora che mette musica, ma roba da matti. Va bene, sono cose che a me non mi interessano più. Ciao a tutti, buon divertimento, buona serata, baci e abbracci di nuovo a tutti. Ciao, non ripeto più. Ciao bello. Ero bello quando ero giovane, ero la bocca più baciata di Porto Torres, adesso sono un montone di garraggio. E qua, ciao Cla, a Futidini, se la gente aveva pensato a farsi i ragazzi sui, aveva fatto meglio. Sempre altamente a testa alta, Natali, non c'è problema. La gente che anda girosa, se in Italia... La lingua soprattutto quella, sempre la lingua se ne deve tagliare, ma intanto sono sempre le stesse persone che si telefonano uno con l'altro, mi hanno letto, mi hanno chiamato, mi hanno visto, mi hanno capito, tutti gli tici abidui, io ti mando a baccare idee. Chi è che mi ha detto ciao bello, non ti ho riconosciuto, perdonami, ma io sono assente dalla radio e non ti ho riconosciuto, chi sei? Sei una zanta, là. Chi è, Antonio? Sì, vabbè, da, per questa volta te la perdono, saluto tutti, da, mi stavo giusto ascoltando un secondo, stavo facendo dei lavori, vi abbraccio anche io. Ciao Antonio, un abbraccio grande, dai, grazie per essere entrato a salutarmi, anch'io ti saluto e ti abbraccio calorosamente. Ma l'assenza non mi permette più di riconoscere le voci al volo, ok? Va bene, dai, cambio per Gianfranco, continuo ad ascoltarvi e non riprendo più. Ciao a tutti, buona serata. Vai Gianfranco. Sì, ciao anche Antonio, ben ascoltato. Ok, Cla. Allora, però ogni tanto fate sentire che il mio numero già ce l'è sempre. Se no mi preoccupo, già lo sai. Ok, a chi toccava? Antonio, riprendi da tu e poi ripasserai per l'altro Antonio. Io per puntualizzare, Antonio lo sa, ho i numeri di telefono di quelli che mi sono rimasti praticamente fedeli. Gli altri li ho tutti eliminati e che non me ne fotti nulla. Ciao Antonio, un abbraccio, riprendi. Caroppa, è così. Non ti detto degli vallici. Ok. Saluto anche Antonio Riserva, saluto. Sì, buonasera a tutti, scusate, niente, sono entrato così, vi saluto che che sto saldando delle cose, sono un po' impegnato. Un bacio in bocca anche a Natalino Alfa 1. Dai caro, quando fai così ti temo, ciao Antu, fai quello che stai facendo, le prusse. Ciao, buon proseguimento, ciao Antu, ciao Gianfranco, ciao di nuovo a Claudio, niente, dai, vi ascolto un attimino e poi quando ho finito spengo tutto e me ne vado. Gappa, hanno dei zaccarori sempre, a contà. Gappa, riprendi Natali? Sì, tanto, visto. E se no a me non me ne hanno dato tutti i colori, però Claudio se ne dovrebbe anche fregare, perché questa è gentaglia. No, è bello che non raccontano mai la realtà, raccontano balle, cioè, sono pauraggi, e buh. E se mi gente intende brutto, qua non voglio manco di, già uso gueo, se sono pauraggio, ti devi far recuperare, boh, non ne ho problemi miei, e quando mi vuoi venire a ciappare, vieni a ciappare, non ho problemi, se sei in radio, punto, finito il discorso. Io più un buon intervistore può che parole. Sì, non fa neanche, se non fanno dispetti, perché si sentono toccati. Ma bisogna lagare i bigli e cuocere nel loro brodo. Questa gente. A me mi dispiace che Claudio si sia allontanato, perché è amareggiato, io lo so, anche a me me ne hanno detto di tutti i colori, Gianfra, sono queste persone che sono gentaglia, e buh, avanti Gianfra. Lo so, l'hanno fatto anche con me, tu cioè, mi senti da tanto, hai capito che se genere di persona sono, non sono una persona che si occupa di certi caramelli e cose del genere. Però insomma dà fastidio, dà veramente fastidio, perché a prescindere ti cercano sempre per ogni minima cosa. E poi gente che perlomeno io neanche conosco, non la conosco e non la voglio conoscere, non mi frega niente. Non c'ho certo timore di certi personaggi. Comunque, chi se ne frega, tanto cercano a tutti, ho visto. Sì, sono gente che è fuori di testa, che non è giusta di testa anche, perché sennò uno che è sano di testa non le fa queste cose. Io di quanto ero riservato, oltre che non cercavo nessuno io, perché non me ne sbatteva niente, in campagna mi conoscono pochissime persone, sanno chi sono io, perché io già non c'ero quasi mai, perché stavo sempre lavorando, quindi andavo lì a mangiare e a dormire, basta. E conoscevo pochissima gente io, anche, perché non andavo a cercare nessuno, figurati un po'. Mi sa che dovevo venire a incontrarmi che sera, me. Soprattutto quasi il fine settimana. Sono lì, in corso Vittorio Emanuele 108, allo circolo. Qualcuno vuole venire a vedermi, sono lì, non ve ne è problema. Ma così un po' sbagli, no? Non vuole evitare questa soddisfazione a questa gente, capito? Perché gente da poco, non vale la pena neanche di fare quelle cose, capito? Ripeto, se la prendono un po' con tutti, sono arrivati a prendersi anche con me, ma chi se ne frega, ma c'è gente che dice cose che poi non sono esattamente quello che sono. Giusto per fare qualche rispetto, qualcosa, almeno parlassero in presenza, ecco, ma non parlano neanche in presenza perché parlano quando non sanno che non ci sei. Ma tanto, insomma, sappiamo come sono fatti, dai. Lo so già, non ne ho problemi poi. Cioè, se qualcuno vuole venire a chiarire, già. Già sono sempre disposto. Non ve ne è problemi, Ucciughi, però di non corrompi massa saricatole a che rubo in 2 minuti. Risa? Sì, no, è gatto mina putti. E io ci guascio, buonasera a tutti. Buonasera, già Rusale, Ducale, non ti preoccupare. Capo, ma sinceramente con certi personaggi non ci voglio manco parlare più, perché tanto. Ignoranza e basta. Più con nessuno, è meglio. Ciao. Riprendi. E chi c'è in comune? Chi c'è? C'è con Gianfranco e Natalino. Natalino! Fuglia! Buonasera, vai Natalino, a posto? Sì, tutto a posto, è da mettere a posto. Come sempre. Ciao, riprendi Gianfranco. Sì, riprendo, però vi devo salutare che mi stanno chiamando. Quindi buona serata a tutti, ciao Antonio, ciao Natalino, ciao anche ad Antonio, ciao a Nicola, non so se abbia sicuramente aveva già cambiato la penna, magari sentite un po' se si è fatto il tutto, chiamatelo. E alle prossime. Buona serata a tutti, riprendi Natalino. Ciao Gianfranco, buon proseguimento di serata, dai. Alle prossime, anche io adesso me ne devo andare, perché sono già le 7:15, sono anche in ritardo, vabbè dai. Ci sentiamo alle prossime, saluto tutti anch'io, dai. alle prossime. Ciao a tutti, comunque Rutinale, buona serata a tutti, già fa con la Torino. Ciao, buona serata, ciao a tutti e due. Ci risentiamo alle prossime. Sì, mi sentiamo a tutti, ciao. No, stavo dicendo, qualcuno può venire a ciapparmi. Non ti lascia a farti, papà, ti voglio un tiro di la fresca al limite. Non ti preoccupare, ci faccio da Costantino. Metti un altro telefono, già ti apro una cosa. Qualcuno su 10? Hola, sezione 10? Sezione 10? C'è qualcuno? Hola. E chi è? Hola chicos! Ciao Robè, no, scaldando un po' l'apparecchio. E beh, frate, ho tanto sentito, l'altro giorno ti sentivo basso, vabbè, c'avevo il correre metro quarto, tu probabilmente mi ascoltavi però. No, beh. Che avanti? No, io vi ascoltavo bene, cioè non senza segnali altissimi, però di radio arrivate bene lì, eh. Aspetta, c'è qualcuno, chi è che ha chiamato? Ciao. Tu dai, col tempo passa tutto. Ok, vediamo se è rientrato Franco. Avanti Franco. Franco. Poi vai a scoprire che sono asini grandi. Lasciamo perdere, va. Maria Strano a me la cosa. È il più forte che arriva qua. Quello più in assoluto, non sai chi è, proprio lui. Proprio Fabrizio. Fabrizio qua è 9,50 e più, arriva un bel forte. Ma Fabrizio era chiamato che sta dicendo? Ok gatto. Cazzo, basta avere l'antenna che c'è Fabrizio. Lui si gira, lui c'ha, a parte c'ha antenne che non finiscono più, poi può. Può anche migliorare la situazione, anche qua quando è attaccato, certe volte Fabrizio arriva a mano, segnali la paura. Considerando che non era vicinissimo come gli altri due che avevo vicino, lui, anche quando spingeva a vedere se usciva una scintilla. Poi forte che mi arriva Daniele. Daniele qua arriva fortissimo, non più di 9,40, in alcuni casi. Un controllo, ciao a tutti. Mi tuando, la mazza te ne varia. Mai parlare male. Ascolta, ti ho montato quel filtro in quella radio, la stavo provando. Scappa! Sì! Benissimo va, ci sono con voce già. Vediamo Roberto, ciao Bombo, l'ho ben sentito, vediamo Roberto. 9,50 Radio 5, perfetto. Va bene, no, stavo montando il filtro in una radio, quindi lo volevo vedere se... Ho chiamato, stasera non c'era nessuno, adesso sono rientrato a casa e così lo tolgo da qua, che non è che è molto spazio. E domani te lo porto, Roberto. Roberto, si è assentato un attimo. Sono rientrato, chi era che ha sfasciato tutto qua? Fabrizio, Fabrizio. Oh, e beh, Roberto, però mi sembra che ci sia lo smitter da riparare in questo apparecchio. Quello di stamattina? Sì, è l'impressione, purtroppo quello è metando. Dai, metti la porta antifissa e lasciala fissa un attimino, vedo fare un controllo. Senza parlare, dici? Eia. No, però tienila un pochettino, Roberto, devo fare una verifica. No, ho capito, ho già detto. Tienila un pochetto. Sì, mi sa tanto di sì, aspetta che mi attacco il generatore, il controllo, dai, riprendi. devo scollegare, devo controllare col generatore, mi sa tanto che fa. Vediamo, dai. 9.50 comunque Fabrizio, pensavo fosse il segnale di Pompugno, infatti, perché mi hanno chiamato al telefono, ho acceso, cioè in quel momento stavo rispondendo al telefono, non ho sentito la voce, ho visto solo il segnale perché ha abbassato il volume. Ma mi sa tanto che questa, c'è lo smittare generoso di questa radio. Va benissimo, comunque ti ascolto forte e chiaro. E quanto ti arriva Fabrizio a te coso? Antu? Stavo detto 9.50. Figurati. Ma con catena stai uscendo Fabri per curiosità? Oh, la Stellar, però in punta al traliccio. Figurati, vabbè, c'ha una bella posizione Fabrizio, di lì domina tutto, è molto in alto, non so se sia più in alto di me, quello non credo, però di lì non ha nessun ostacolo, sfacca tutto. Ehi, aspetta che mi aprimano anche, mi voglio controllare lo smitter, dai, riprendo fra un po'. Fabri, scusa, una cosa al volo, che non ti faccio perdere tempo, l'avevi controllato per quella vite di quella manopola? Sì, guarda che come ti dicevo io, come tutti gli apparecchi, guarda che devi tenere, sarà successo qualche problema, devi tenere la parte attaccata alla radio e lì quella è la frizione. Sì, no, lo so, l'avevo usata, però probabilmente adesso non aggancia più se consumate le alette, non lo so, io lo sapevo perché prima all'inizio era un po' morbida, parlo anni fa, da quando c'ero questa radio l'avevo messa un pochettino più dura, dai, più sensibile rimaneva, perché era tu che si metteva a girare, però già da un paio di mesi gira quasi a vuoto, la devi tenere un po' premuta. E fa una cosa, togli la brugolina, dietro ci sono delle alette, ci sono, e guarda come sono, come gioca, insomma, quando gli giri mi sembra che vanno a spingere sull'affare metallo in pratica, se non mi ricordo, guarda lì com'è, gliele muovi, gliele allarghi un po'. Infatti mi hanno consigliato così un amico, lo stesso. Ma è una domanda, è una brugola o tox quella roba? No, è una brugola piccolina, proprio piccola. Ehi, va bene, dai, grazie per il momento. Dai, siamo qua Fabrizio, ti serve qualche informazione di qualche controllo. Ok, di nuovo Anto, riprendi. Gaffa, sta chiudendo. E sta facendo delle prove, adesso deve provarla col generatore, una radio, sta sistemando, tarando lì lo smitter, probabilmente c'è qualche problemino. Dai. Già in gamba Fabrizio, già è mettere su, diciamo, all'altezza, alla grande di risolvere quei problemi. Per lui sono caramelle. Ok, vediamo se è rientrato Franco Binario. Avanti Franco, se ci sei batti un colpo. Sicuramente sta ancora parlando. Vabbè. Ok, e dice c'era anche Natalino, mi hanno detto, tanto tempo fa, quando io mi sono spostato all'inizio non c'era nessuno sul 10, sono passato al 23 e mi ha detto Gio Maria e Tore che c'era anche Natalino parlando un momento. Vediamo se per caso l'ascolto. Ci sei Natalino? Sulla. Poi c'era l'altro giorno, ho sentito quel Mirko che ha migliorato un pochettino da Alghero la trasmissione, vediamo, lo proviamo a chiamare se risponde. Attenzione Mirko, se tu qui città di Sassari avanti. Ah, ciao Mirko, ben sentito. Aspetta un attimino, forse c'era qualche donato che stava chiamando. Avanti, chi chiamava? Che è avanti? Ma la portante non risponde. Ti sei abbassato di sentire Ale, Mirko, sei sempre la radio chiara, Santiago 8, tendente al 9. E non so se ti ha ascoltato Antonio, avanti Antonio. Ciao, ciao Antonio Mirko, buonasera. Ma non ho capito, metto, si è rotto che cosa della Game Master, non ho capito. Se no gli metti un altro tubo sopra e poi gli metti il vocalizzante e glielo rinforzi, c'è cioè tipo una cosa telescopica a cannocchiale, glielo infili dentro e glielo rinforzi, non penso che sia una cosa grave, dai. Ok, vediamo un po' di nuovo se quello che poco fa sta mettendo portante vuole entrare, avanti chi vuole entrare? Nulla, riprendi tu Anto. Capa, dovrebbe mettere un'antenna un po' migliore, dovrebbe, perché non metti un'antenna come si deve? Che fai prima almeno, perché lì adesso quando arriva il tempo brutto lì ad Alghero tira, cavolo, se non è un'antenna buona te la butta giù. Stai ascoltando Antonio? Sì, l'altro giorno stavi andando. Ripeto, io ti ascolto comunque anche l'altro giorno quando eri più basso e non ti tiro fuori bene. Però quando ti ho ascoltato due o tre giorni fa superavi il 9 di segnale, per cui c'è stato un grande miglioramento, e anche gli altri che magari avevano difficoltà prima adesso con quel segnale riuscivano a tirarti fuori meglio. Cerca di risolverlo, così ho piacere anche ascoltarti e in modo che ti ascoltano tutti quanti bene. Ok, di nuovo a te Antonio. Cappa. Piano piano. Il problema è questi Gilmaster, secondo che zona sono in zona di mare, poi sono molto fragili a spezzarsi, perché io conosco una persona di Porto Torres che gliela spezzata, o sono robustissime e fatte bene, o se no le spezza. Naturalmente, tanto bisogna vedere se è una cosa autocostruita oppure se sono le originali, perché quelle originali utilizzano dei materiali abbastanza buoni, diciamo, tengono abbastanza bene, però poi qualcuno cerca di imitarle e utilizza proprio la classica canna da pesca, per cui è molto sottile il materiale, secondo il colpo che gli dà il vento la spezza in due. No, è proprio quella originale che si è spezzata, ma non solo a chi dico io, no, a tanti è successo. Non lo so, allora argomenti come l'hanno sistemata, perché se tu metti un palo troppo rigido ti fatti poi effetto frusta, anche le mantova, io ho visto dalle mantova tronchendosi in due perché il palo non era fissato bene, faceva tipo effetto frusta e scaricava sopra il piantone anziché metterli tiranti un pochettino più distanti, l'hanno messa troppo rigido, per cui faceva questo effetto molto pericoloso, e piano piano sbatte ruggi, sbatte romani, la tronchi in due. Io la mia ce l'ho tanti anni facendo le corna, sempre bella dritta, non so, già l'avrei vista tu, e grazie a Dio sta sempre andando. Se si dronca poi ne mettiamo un'altra, c'è una turbo pronta a piazzare, però per il momento va bene questa qui. Però è tutto fatto a regola d'arte, tutti i tiranti a distanze calcolate, non ho messo la mina a futu come molte persone fanno, e basta. Ok, di nuovo a te Mirko. Meglio farlo una volta solo il lavoro, senza risparmio, e lo fa una volta solo, perché è inutile poi ogni tanto d'inverno devi andare a controllare, a fare, eccetera, eccetera. Io ho fatto tutto, prima ho studiato a tavolino, tutte le misure delle altezze dei tiranti, a che distanza dovevi mettere, eccetera, eccetera. E grazie a Dio ho utilizzato un palo grosso d'acqua, di spessore molto, molto grosso, per cui prima di troncarsi quel palo ci vuole un uragano, e scende magari da casa, ma quello terrà abbastanza. Di nuovo a te, Antu. Ho visto il travaglio che hai fatto, quello non lo aspetterei mai, cioè il palo proprio no. Ma se l'antenna la mantova è piazzata bene, dopo i 3 anche 30 anni su non scenderà mai. Hai visto la traduce, ci sono le mantova che hanno più di 30 anni, belle sempre dritte, quella nella Budi Budi, nell'altra di fronte a via Pirandello, cos'è quella zona. Adesso convinto se tu gli attacchi il PL e quelle stanno andando. Certo, quella di coso. E poi ti ho detto l'altra volta, ti ricordi, che avevo sbagliato casa di Bracco, di Giovanni Bracco. Sono andato tempo fa, prima di andare in ferie, a accompagnarlo a casa sua, perché dovevo fargli un lavoretto, alla macchina l'ho accompagnato. Stavo andando dove dicevo io a casa, convinto fosse casa sua, ti ricordi quella piazzuola che c'è dietro via Togliatti, invece non abita lì, no? Quella non entra nulla. È un'altra antenna, infatti dicevo, è stata con un pezzo di ferro, un manico di scopa, era una matta ma senza radiare. Ma questa non è casa mia, io abito da un'altra parte. Dove abita lui c'è proprio una manta, ma lui si è attaccato una manta ma di un vecchio CB, non so quanti anni è, più di 30 anni, e la sta utilizzando. Allora, sarà quella che c'è dietro l'altra via. Più su, dietro l'altra via, già l'avrei vista, già si vede, perché ero convinto che era quella lì. E ti posso dire, lui la usa anche negli HF, l'ha utilizzata con l'accordatore, dice che andava bene anche negli HF. Ah, dietro, dove c'è la scuola, si vede da lì, si vede. Ehi, non so dov'è. E quella antenna c'ha più di 30 anni, me. Sempre in Kiwi, pure che è stata piazzata bene. E certo. Ok, Mirko, di nuovo a te. sono un po' caruccia, considerando che c'è con quel prezzo ti trovi una Mantova, sinceramente, vabbè, qualcuno va a fare per questione di per non avere radiali in mezzo ai piedi. Quella di Claudio è un'antenna di 8 metri e mezzo, c'è una J-Pol, c'è una specie di direttore davanti, un'altra diciamo un manico davanti, un bastone davanti di 2 metri abbondanti, ed è un'antenna che io qua ho guadagnato quasi 5 punti, per cui non sono pochi, considerando che non siamo troppo lontani, ed è tantissimo. Poi in lontananza ho visto che c'ha dei bei rapporti di segnale, funziona bene, per cui è un'antenna da consigliare. Sì, è tutto accordato con il cavo, diciamo. È un'antenna semplice, comunque, la GameHack, non è niente di complicato, è un'antenna che esiste da 50 anni, per non dire 100 anni, perché non è niente di brevettato. Questa di Claudio è un'antenna nuova, l'avevano costruita addirittura ai tempi dei tedeschi per i dirigibili, però era una mondo molto stretta come larghezza di banda, un po' complicata da utilizzare. Però qui si hanno fatto un brevetto, ci hanno messo una cosa brevettata, per cui riesce a essere anche abbastanza larga, come fa, mi pare, 25 a 28 riesce a risuonare, il rosso non è altissimo, per cui è un'antenna che va molto molto bene. L'ha confrontata con la Mantova, lui è la Mantova Turbo, una a fianco all'altro, e almeno da parte mia posso dire che un peluzzino ha guadagnato come segnale. C'è da dire che una è un po' più alta, la Mantova, anche se quella che è più bassa di ormai arriva alla stessa altezza, considerando che c'ha, però quando metterà nel palo alto ne verificheremo effettivamente i segnali. Ok, di nuovo a te, Antonio. Ma Pippi ne guadagna, quella lì ne guadagna perché è più alta come antenna, quindi recupera. Solo diciamo che la stessa altezza è avanti, ma se ti vidi. Sì, è un metro e mezzo, più di un metro e mezzo più grande della Mantova, ma questa è 8,50 m, la Mantova sono circa 6,80 m, 6,75 m più o meno, dipende da come la curvi, la misura è più o meno quella lì. È una 7/8, non è una 5/8, per cui è appena appena più lunga. È un'antenna che non ha radiali, per cui non ha rompimenti di scatole di cornacchia, almeno sulle radiali, perché qualcuno si lamentava che i radiali si troncavano in due sulle cornacchie. Mari in cima, e avere se ci appoggiano la curvaccia, magari bisogna vedere col tempo cosa li fa, però è un'antenna, almeno la prima impressione è più che buona. Ok, di nuovo a te, Mirko. Sì, il grado di radiazione è molto basso, è molto adatta per fare DX per lunghe distanze, è studiata molto bene. Poi c'è quella specie di direttore davanti che ti dà un po' di direzionalità, diciamo, di guadagno in quella direzione lì, si fermare per un peluzzino dietro, però in quella direzione dove c'è questa specie di direttore, io lo chiamo direttore, guadagna un pochettino rispetto a un'antenna omnidirezionale, c'è un lobo di radiazione leggermente superiore dalla parte dove c'è questa specie di manico di scopa davanti. Infatti vediamo un pochettino poi col tempo, un pensierino si può fare, vediamo un po'. Eccomi. Novità di Marco Franco. Sì, no, mi ha fatto una bella chiacchierata, dai, scusate. Tutto ok, già sta bene. Poca voglia magari di entrare, Maria, al fresco a settembre, dai. Via, c'è anche Mirko, te lo rilancio, Franco, vediamo se lo ascolti. Mirko, l'hai ascoltato a Franco? L'hai sentito, Mario Franco? Sento qualcosa che si muove, però non capisco nulla le parole. Allora, lui ti ha ascoltato, mi stai dicendo, Mirko, che lui non riesce a tirarti fuori, tu comunque l'ascolti, riesci a tirarlo fuori bene a Franco? Sì, c'è una bella radio. Comunque, hai sentito, Franco, segnale 5-6, modulazione buona, chiara. Antonio probabilmente arriva un po' più forte. Quanto ti arriva, Antonio? Capa, guarda bene come ti arrivo lì all'alghero. Senti tanto? Un po' più forte. 7-8 tu li arrivi, qua lui mi sta arrivando 8, non so quanto li sto arrivando io. Dico, dobbiamo chiamare un rapporto. io, vabbè, io almeno sono più aperto rispetto a loro, non c'è problema, diciamo, confermi quello che immaginavo io, non per vantarmi, ci mancherebbe, ma quando c'è una buona posizione più favorevole, loro magari in altre parti arrivano più forti di me, se vanno magari in zona di giù di Porto Torres, Mario Franco, sicuramente arriverà molto più forte nella zona di Castelsardo rispetto a me. Capo, non so se riprende, perché a volte ho il timore di parlare sopra. Magari l'antenna sul tetto l'avrei sentito, perché si muove qualcosa, sento che sta parlando, però non riesco a capirlo. Però ripeto, io Alghero sono molto molto negativo. Sei avanti, tu. Capa, no, anche io non è che sia molto positivo, però riesco a tirarlo fuori lo stesso. Non ho problemi, capito? Non lo sento, non ho una radio, una super radio, però sento che c'è, che va, lo sento, dai, diciamo. Provare in FM, non so che, o in banda laterale, se riusciamo a tirarlo fuori. Se volete andare in banda laterale, andiamo in banda laterale. Ce l'ha lui? C'era in banda laterale, Mirko. Allora, USB 27075, va bene? Così facciamo una prova, dai. Proviamo un po'. Perché non è, vabbè? Ci siamo? Vabbè, sono tutti fuori frequenza. Chi sei tu? Marino, Ehi, ciao, sono ascolto, sto scrivendo. Ciao a tutti, Marino, ciao, Roberto, ciao. Marino, tu sei perfettamente centrato, segnale 925, ti scusi, ascolto perfettamente a te. E lo so, magari sono fuori, sono stati, ok, ciao Roberto, è tutto, ciao. Sto ascoltando, ma c'è gente, non posso rispondere, ciao a tutti. Ehi, ciao. Vediamo di nuovo Antonio, avanti Antonio. Campa, guardate a me, va bene, com'è? Un casino, se ne c'entra uno perdo l'altro. Ma non converrebbe andare in FM. Chi ce l'ha l'FM? Proviamo un attimino FM, dai. Campa, proviamo un attimino l'FM, che forse è meglio. Avanti in FM se c'è qualcuno. FM va meglio? Gianluca, ma come mai eri fuori frequenza? Non riuscivo a centrarti a te, Franco. Non lo so, magari vuole centrato questo apparato, vuole così, calibrato. Guarda a vedere. Sì, adesso sei a posto, Antu. E il problema, io sono a posto perché ve lo garantisco, sto utilizzando una cosa abbastanza decente, dai, non è un giocattolo. E mentre Mirko l'ascoltavo lo stesso bene, poi è entrato Marino perfettamente centrato, per cui il problema ce l'avevate voi due. Antonio un po' di meno, ma Anto, tu eri USB o LSB? USB ero. Strano, vabbè, delle regolazioni al microfono probabilmente, dove togliere il processore. E a me non riuscivate a sentirmi? Sì, no, io ti sentivo bene, ti ho centrato. Invece non riusciva a centrare a Mirko, perché anche il manatore arriva basso. Però un po' meglio. Ehi, vediamo Mirko se mi ascolta. Avanti Mirko. Mirko, siamo FM. Peggio che mai. Avanti di nuovo Mirko, ci sei? Questo è ancora in banda laterale. Beh, signori, torniamo un attimino in AM, così saluto, che io devo far cosa adesso. Avanti Lucaria, andiamo tutti in AM, dai. Ok, io sono in AM adesso, ci siete? Sì, un altro mondo. Oh, vi ascoltavo bene in FM tutti quanti. Mirko forse non riusciva a entrare in FM, non lo so. Mirko, ci sei ancora? Ma adesso, ma hai fatto qualcosa? Adesso ti ascolto più forte di segnale. Sei quasi 9 adesso, sei salito. C'era anche Luca, avanti Luca. Luca! Ci ha fatto un saluto e buona. Beh signori, io adesso vi devo lasciare che mi è venuto un po' l'angurino, un leggero l'angurino come diceva quello dei cartoni animati. Saluto a Mirko il più lontano, poi in ordine Antonio, Franco, Luca e eventuali amici qua sul canale 10, sì, canale 10, dai. Ciao ciao, buon proseguo a tutti e buona cena se andate a farla. Ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao, correte da parte mia. Ciao ciao, ci sentiamo Robè. Adesso sono salito un po' di potenza, com'è? Cappa! Dai, io saluto Roberto, ciao Roberto! Cappa, ciao Roberto, ora ci vediamo alle prossime! Ola, ola! E vai! Ehi, aspetta, mi sto mettendo le mutande! Ciao Lu, ciao, anch'io vi saluto, salutatemi Mirko di Alghero, anch'io vado a fare carica, dai! Ciao Luca, un abbraccio anche a te, riprendi a tu! Ciao ciao, ce la risentiamo, ora sì con la cuglia un po' fuori! Ciao Franco, ciao Roberto. E via, mi sono arrivato, tu dai, adesso, 5 minuti. Gabba, gabba, io faccio un po' di passaggio, un ghiaccio gordo. Mamma mia, cazzo, mal di testa, anzi qua. Maledizione. Beh, non lo sai così. E via, andiamo bene, andiamo, chi? Gabba, nel tanto lo devo accendere, devo va. Eh sì, nel tanto bisogna metterlo in moto, altro che... Gappa gappa dai! Ola! Ola! Fai da bravo, Gesù Cristo mio! Che andiamo e andiamo! Che è? Come schiaccio questa incandescente, si illumina tutto in occhi! Che tipo albero di Natale! Ehi, con questa cosa un grubato è perfetta! Con la TV! Contento era! Vedi tu! Sono qua e quindi lo doppio, quasi un triplo, diciamo dire, quasi un triplo, eh. 130-120 euro, è così, eh. Ho detto 150 euro minimo. Ehi, tanto mio mamma l'ha pagato 200 euro. Gli ha detto così? No, oh, quello di mamma, sono te a comprarlo, 199 euro, della LG. La LG se rubia la sabacca non lo paga così. Ma quella è Saba, che Saba costa, capito? Ah, perché siamo bucanari, no? Che è una fortina adesso. Però babiccia. Ma sabbi che mi hanno mangiato un pezzo di vaccino. Guarda, ma è sempre un braccio. Fanculo, vai, devo vaccino. No, è il passato, dai che nessuno lui sa fare, mamma mia. Ecco, anche lui ha fatto andare. Bogo bogo, riaccendo l'altro. Mamma mia, che caldo che c'è. Pesca, andiamo l'antenna. Che da, beh, io ho cagato nel ciugoso, lo sabato, sei nonghi. Si fa del mal di gabbo. Sento la compressione addosso. Luca, mi senti? Sono in trendy, su TikTok. Ah, e quindi era contento era. Ecco qua fatto. L'ha provato, l'ha attaccato nel computer. No, non c'era niente. Cappa. No, già funziona, appunto. E dopo l'hai procurato, un altro televisore vecchio. L'hai procurato. No, l'ho procurato anche da un amico. L'ho curato da un amico. Ah, oh yeah. Meno male. Beh, alla fine va bene. Perché non è che ce ne trovano, no, di questa roba. Tu conta, io c'ho come si chiama? Un televisore, un capuzzino nuovo, c'ha un 43 mi sa, se non mi ricordo, vabbè. Io c'ho un 55 pollici da Kai 4K. Praticamente rimane in stand-by, c'è la spia rossa, non parte. Adesso non so cos'è, comunque l'ho messo da parte quello per il momento. Ed è nuovo nuovo come. Non si sa cos'è. Ma guardate, sono difettosi gli Akai. Farò quel difetto lì. Beh, io ne ho visto altri, funzionano bene, a fortuna. Ma infatti. Chiappa. Io c'ho la lavatrice. c'è quella marca, ne ho preso due e funzionano benissimo. Lavati Ciaccai? K. Come due? Ho preso prima una a casa di babbo e ce l'hanno ancora e funziona come il primo giorno che l'ha comprata, che l'abbiamo comprata. Poi ne ho preso una qua e funziona sempre bene. Ah, no, sono ben riuscita la verità. Vabbè, fortuna. Ah, quella che abbiamo comprato noi. Poi c'è un televisore anche a casa di babbo. È sempre funzionante. Finché va. Finché va. Questo quello che sto usando adesso, forse me l'avevano regalato. Devo sistemare il led. Sta andando, poi c'è l'ho di ricambio nel caso. C'è un altro, questo è Saba, tanto lo stesso che di ricambio è Saba. Ed è nuovo, nuovo, nuovo. È comunque identico a quello di Costantino. Spiccicato per il fratello di quello. Capo. Io ne ho uno qua, della Getz, gatto è. Sempre funzionanti, Finché va. Ma io ho comprato roba sotto marca che ce l'ho avuta anni. La fortuna è, perché la sottomarca purtroppo non trovo per i cambi. Devi capire molti però molti ricambi li costruiscono le stesse fabbriche che magari fornisce pezzi per Saba o per altro, devi capire bene cosa è, o per altri televisori. Un tempo era la Sony a fare da padrona. Ah, beh, certo. Vabbè, tu. Ce ne sono tanti, comunque Philips, che sono buoni. Però i Samsung lo stesso già sono buoni, come te. Io gli ultimi, io ce l'avevo levati a Marina. Ne ha tre, scusate, tre Samsung. No, ne ha uno che l'avevo comprato io, poi perché non lo potevo mettere, mi sono preso il Toshiba. Ne ha uno a babbo che ce l'ha più di 10 anni, è sempre funzionante. E quelli al plasma consumano, dei correnti quelli. Poi dicono, quella LED consuma molto di meno. E vabbè, comunque durano di più quelli al plasma. Fortuna che mi pure, quello che è un Samsung, uno dei primi del LED, cioè da tanto tempo funziona benissimo. Comunque Samsung, cioè un colpo di anni, è molto molto la fortuna a me. E prima di andare qui, il preso durato 6 mesi, è andato gran vicina. Forrugia. una volta a ragione, a ragione. Okay. c'è il Bruno, te lo conosci già. E mi ha detto solo che è troppo fresco, Non lo so chi è, quello che canta con gli altri la sommina lo sembra. Sì. Ah, Fabri. Guarda che sta con noi sempre, con Alessandra, il più antico. Simone, Simone ha fatto un casino.